in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi, anche oggi le prime pagine sono quasi tutte dedicate al G8. La novità è in questo quasi, perché c'è qualche giornale che sta cominciando a cambiare tema. Comincerei da questi giornali, sono due in realtà, non sono molti, che aprono con qualcosa di diverso dal G8. Uno è il Sole 24 Ore, ha il titolo di apertura "Uno sconto per le banche". BCE, passività fino al 20% del PIL europeo, il piano USA perde PIMCO. L'altro giornale invece, che titola in maniera diversa, è Libero, che si titola su Di Pietro. Sinistra la frutta, teste di coccio. Di Pietro non si rassegna al successo del Cavaliere al G8 e compra una pagina di un giornale inglese per gettare fango sull'Italia. D'Alema insiste con la scossa che verrà. Bene, allora adesso facciamo una carrellata di titoli, invece, come dicevo, appunto, sul G8, Corriere della Sera, primo accordo tra i grandi sul clima, la Cina apre ma non firma, stretta di mano Obama, Gheddafi, Repubblica. Clima, accordo senza la Cina, Obama, l'America si impegna a salvare la terra, Berlusconi, G8 ormai superato. La Stampa, sul clima, accordo storico, Obama, passi avanti importanti, temperatura, sì al limite di 2 gradi. Il Giornale, Obama e Berlusconi, così cambierà il mondo, nuove regole anticrisi, intesa sul clima, accordo sul commercio, importanti passi avanti al vertice dei grandi. Il Presidente USA, consenso storico. Il Manifesto, un brutto clima, l'accordo del G8 dell'Aquila sui cambiamenti climatici non c'è, la Cina si dichiara non vincolata, il segretario dell'ONU Ban Ki-moon attacca, sono deluso, è un'occasione persa. Sul resto, crisi economica, armi nucleari, crisi internazionale, solo parole. L'Unità ha un'apertura grafica, cioè c'è un disegno dell'Africa, un profilo del continente africano tutto in nero, e il titolo è La macchia nera. Un G8 piccolo piccolo, solo parole sui drammi dell'Africa, Berlusconi promette i soldi mai versati, clima, la Cina gela Barack Obama. La sveglia di Napolitano, nessun direttorio assicura lo sviluppo globale, tour dei grandi tra le macerie, ma solo Clooney e Veltroni fanno visita alle tendopoli. Il Messaggero, clima tra i grandi intesa a metà, Napolitano subito nuove regole per evitare che la crisi si ripeta. Il Foglio, senza il cinese Hu, il G14 dell'Aquila non può risolvere 5 rebus. Alcuni dossier cruciali sono bloccati o slittano al prossimo vertice di Pittsburgh. Battaglia protezionista. L'Avvenire, accordo sul clima, senza Cina. Spiraglio per le nuove regole del commercio mondiale. Liberazione, il pianeta può attendere. G8 già in crisi, l'accordo per l'abbattimento del 50% dei gas serra entro il 2050. 80% per i paesi sviluppati. La Cina, per noi non è vincolante. Il Brasile ne contesta la credibilità se non c'è un obiettivo intermedio entro il 2020. Ma Obama insiste, creiamo migliaia di posti di lavoro per un'economia pulita e sostenibile. L'ONU, impegno insufficiente, occasione unica mancata. E infine Il Riformista, con un titolo sul G8 un po' diverso dagli altri, è morto il G8, sarà sostituito dal G13. Il vertice dei grandi si allarga per la prima volta, forte impegno di Obama sull'ambiente, ma l'ONU critica l'intesa, una grande occasione persa. Benissimo, come abbiamo visto appunto siamo sempre in clima da G8 e volevo cominciare da un paio di editoriali che si occupano di questo tema, mentre come vedremo poi invece tutti i grandi giornali, la maggior parte dei giornali ha editoriali su tematiche diverse. Comunque cominciamo dal Manifesto, dove un fondo firmato con lo pseudonimo Galapagos scrive: solo una cosa è emersa nitidamente, gli USA, nonostante il carismatico Obama, non sono più padroni del mondo. Il nuovo protagonista che avanza ha un acronimo che dobbiamo imparare a conoscere bene, BRIC. Sigla che sta per Brasile, Russia, India e Cina. Insieme hanno quasi 2,5 miliardi di abitanti, un reddito pro capite ancora insignificante e una distribuzione di redditi ancora più infame di quella nostrana, ma anche una classe media in espansione che rappresenta un serbatoio per la domanda mondiale di beni di consumo. E a questo proposito poi vedremo un editoriale interessante, anzi possiamo vederlo subito. del Sole 24 Ore, che si occupa di Asia, anzi più che editoriale è un intervento di Min Jinpei, che comincia in prima pagina e occupa quasi tutta la seconda, e che appunto sviscera in maniera molto approfondita e molto interessante il caso Asia. E quindi io adesso ne leggerò solamente un breve pezzo, ma credo che chi è interessato agli sviluppi di questo continente oggi il Sole 24 Ore sia una lettura obbligata. Scrive Min Jinpei: anche presumendo che l'attuale tasso record di crescita economica continui, occorreranno 77 anni perché l'asiatico medio possa raggiungere i redditi dell'americano medio. Ai cinesi basteranno 47 anni contro i 123 degli indiani. Infine, il budget militare di tutta l'Asia nel suo complesso non raggiungerà quello degli Stati Uniti prima di altri 72 anni. Dall'Asia all'Africa, dicevo appunto che l'unità si occupa di G8, ma con un punto di vista puntato sull'Africa, e l'editoriale è firmato da Jean-Léonard Touadi, deputato del Partito Democratico, che scrive: un flop clamoroso dalle conseguenze drammatiche sulla vita di miliardi di persone costrette da questa globalizzazione senza solidarietà alla clochardizzazione di massa nelle bidonville delle megalopoli africane, nelle campagne senza acqua potabile, istruzione e cibo. Il pianeta dei sommersi, del capitalismo turbo, delle vittime delle strutture di peccato, secondo quanto detto da Giovanni Paolo II, della finanza senza etica e dell'economia dei flussi di merci e di capitali, oggi vede morire la sua speranza tra le macerie. E la regia è italiana, non solo perché l'Italia presiede questo forum senza costrutto di solidarietà e di governance distributiva dell'economia, ma perché il nostro governo ha fallito tutti gli obiettivi e non ha mantenuto le promesse, a cominciare dal Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e le altre malattie infettive. Bene. Adesso invece vorrei passare appunto agli editoriali di altri giornali che, come dicevo, si occupano di argomenti diversi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che in un editoriale di Piero Ostellino in prima pagina, intitolato La strana idea di democrazia, si occupa del caso di Pietro, del nuovo caso di Pietro. Avrete sentito molto probabilmente che Di Pietro ha comprato una pagina di pubblicità a pagamento sullo Herald Tribune per sostenere che in Italia la democrazia è in pericolo. Ostellino gli dà una risposta molto dura. Ecco, io volevo sottolineare una cosa, poiché Ostellino è uno, Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera, è uno di quei rari personaggi che si dichiaravano liberali quando essere liberali non era di moda e i liberali erano un piccolo partito che aveva il 2%. E quindi direi che è più credibile di altri per illustrare il punto di vista liberale. Scrive Ostellino: qui la situazione giudiziaria di Silvio Berlusconi non c'entra. Siamo di fronte a un parlamentare che delegittima, oltre che una maggioranza di governo liberamente eletta, la qualcosa rimane ancora nei limiti del confronto politico, anche il Parlamento, il Presidente della Repubblica, e dubita persino della legittimità della Corte Costituzionale, che potrebbe nei prossimi mesi respingere senza scandalo il lodo Alfano. Uno spirito, quello di Di Pietro, autoritario, che mal sopporta oggi di fare politica dentro il perimetro costituzionale e che così facendo getta anche qualche ombra sul suo passato di magistrato. E l'altro giornale che si occupa ampiamente di Di Pietro, come avevo detto prima, è Libero, ma in seconda pagina Libero ha una cosa molto carina, ovvero un'analisi linguistica dell'inserzione pubblicitaria di Pietro sullo Herald Tribune, in cui si scopre che, dubito che l'abbia scritto Di Pietro personalmente questo testo, ma insomma l'avrà fatto tradurre da qualcuno, ma ha usato un traduttore che conosce l'inglese in maniera molto superficiale, e Libero si è divertito a segnare con la matita rossa e blu gli errori d'inglese, che sono veramente parecchi, a testimonianza che la conoscenza di questa lingua da parte degli italiani in media è abbastanza arretrata. Un errore blu, per esempio, proprio all'inizio, è l'uso della parola government per dire governo, invece si dovrebbe dire cabinet. E un errore rosso è addirittura nel titolo, cioè, quando Di Pietro titola Appeal to the International Community, Appeal non vuol dire appello, come sappiamo chi usa la parola sex appeal, ma se ne doveva usare un altro e il libro dice meglio usare plead o un più generico call, ma poi ce ne sono anche molti altri. Bene, andiamo avanti adesso con gli editoriali. La Repubblica si occupa di Berlusconi, del G8, ma incentrata sulla polemica che diviso, che sta dividendo e che ha diviso il giornale fondato da Eugenio Scalfari e il Presidente del Consiglio, e se ne occupa il direttore Ezio Mauro, che scrive un intervento in prima pagina dal titolo L'ossessione, ricordando che ci sono state polemiche anche tra il Presidente del Consiglio e un giornalista di Repubblica nel corso della conferenza stampa. Prima ha cercato di non rispondere alla domanda di Gianluca Luzzi, scrive Ezio Mauro riferendosi a Berlusconi, cercando di interromperlo con evidenti segni di nervosismo. Poi, parlando della buona immagine del summit, ha lanciato la solita accusa di disfattismo al nostro giornale. Non avete raggiunto il risultato che volevate. Ed Ezio Mauro a questo punto scrive: avevamo scritto 2 giorni fa che per il bene dell'Italia, paese ospite, il successo del vertice era importante. E ieri Vittorio Zucconi ha analizzato il primo esito, cioè l'assicurazione di Barack Obama sul nostro ruolo tra gli 8 grandi, scrivendo che questo è il risultato vero che il nostro paese, il governo Berlusconi, i futuri governi incassano al G8 e che l'Italia può riporre in cassaforte come un capitale. Bene, e sulla stampa invece un interessante intervento di Marcello Sorgi ci dice che è pronto il Partito del Sud, per cui oltre a una Lega Nord è facile che presto avremo anche qualcosa di simile a una Lega Sud. Interessante poi che lo scrive un giornale del Nord, tra l'altro. Scrive Marcello Sorgi: il Partito del Sud, una sorta di lega alla rovescia, sta ormai per nascere, ma non è più solo una chiacchiera da transatlantico, anche se per i corridoi della Camera e del Senato se ne parla molto. È un cantiere in cui si lavora alacremente, pur nel tradizionale riserbo siciliano di un'iniziativa che ha nell'isola granaio dei voti del centrodestra la sua incubatrice. Infine, volevo segnalare un editoriale del giornale firmato Osservatore Tramontano che si occupa del caso Murdoch. Forse avrete sentito che i giornali dell'editore britannico, in realtà di origine australiana, anche se possiede giornali in Gran Bretagna, comunque spiavano i politici, usavano metodi da investigatori più che da giornalisti, nel senso da 007, e scrive Salvatore Tramontano. I giornalisti del gruppo Murdoch, infatti, secondo il quotidiano Guardian, mettevano nel mirino VIP politici e esponenti dell'establishment e li sottoponevano ad un regime di sorveglianza con il loro nuovo modo di fare giornalismo. Lo spionaggio telefonico, sì. I VIP venivano intercettati dai cronisti. Alla faccia del giornalismo anglosassone. Ci hanno spiegato fino alla noia che quel modello era una scuola di eleganza, di stile, di forma, che gli inglesi erano un'accademia liberale, una piccola Atene della casa stampata. Adesso scopriamo, in mancanza di altre prove, che sono spioni, clonatori di cellulari, violatori incalliti della privacy. C'è però da sottolineare che, come scrive lo stesso Tramontano all'inizio del pezzo, che a denunciare queste cose è un altro quotidiano britannico, il Guardian, per cui forse il livello della loro stampa non è poi così basso come sembra trasparire. Bene, adesso sì, direi che passiamo alle strade, strade in diretta e al traffico. In primo piano. Sì, buongiorno, questa è la rassegna stampa di Radio 24, la riprendiamo. Un altro tema del giorno è il ritorno all'atomo e se ne occupa la stampa con una intera pagina che si domanda davvero conviene l'atomo e con una serie di domande, domande e risposte sui quesiti più scottanti. Il Corriere della Sera invece ha 2 pagine e volevo segnalare un articolo che rifà un po' la storia delle vicende dell'energia atomica in Italia. E scrive Roberto Bagnoli: nel 1966 l'Italia era il terzo produttore del mondo di energia nucleare con 3,9 miliardi di kilowattora. Erano gli anni di Felice Ippolito, padre della fissione Made in Italy, che ha sviluppato i progetti delle centrali di Garigliano e di Latina, che poi fu abbandonato dalla classe politica italiana. Interessante notare come l'Italia era all'avanguardia dell'atomo e l'ha lasciato. L'Italia è stata all'avanguardia nello studio della progettazione delle turbine eoliche e adesso è assolutamente nella retroguardia della produzione di impianti eolici. E l'Italia in questo momento, con i laboratori del CNR di Padova, è all'avanguardia nello studio dell'energia nucleare da fusione e vedremo come andrà a finire. Bene, e la settimana si conclude, la mia settimana di rassegna stampa si conclude oggi, che è venerdì, e venerdì è anche il giorno dell'uscita dei settimanali. L'Espresso ha in copertina Silvio Berlusconi, il titolo è Silvio si stampi, e all'interno ci sono parecchi articoli, ma quello in apertura è firmato da Umberto Eco, il titolo è Il nemico della stampa. Scrive Umberto Eco: sarà il pessimismo della tarda età, sarà la lucidità che l'età porta con sé, ma provo una certa esitazione, frammista scetticismo, a intervenire su invito della redazione in difesa della libertà di stampa. Voglio dire, quando qualcuno deve intervenire a difesa della libertà di stampa, vuol dire che la società, e con essa gran parte della stampa, è già malata. Nelle democrazie che definiremo robuste non c'è bisogno di difendere la libertà di stampa, perché a nessuno viene in mente di limitarla. Panorama invece si occupa di in apertura, una copertina sull'estate, ma si occupa in apertura del Partito Democratico. Primaria al minimo, partito al massimo è il titolo, il massimo riferimento, come facilmente intuibile, a D'Alema. Scrive Stefano Brusadelli: un pugno di parole lanciato in una appiccicosa serata romana è bastato a far capire che a ottobre, congresso del PD, non sarà in gioco solo il nome del segretario, è sul tavolo anche una posta più alta: decidere se in Italia potrà radicarsi il modello del partito all'americana, con le primarie aperte a tutti, iscritti e non, o se è più opportuno il ripiegamento sul collaudato partito delle tessere legato a stagioni d'oro della DC e del PC. E volevo anche segnalare che il venerdì Repubblica ha un'interessante inchiesta a più mani sul turismo in Italia. Ora sappiamo che l'Italia è uno dei maggiori paesi turistici del mondo e il turismo è una delle fonti di entrate più importanti per il nostro paese, e la copertina del venerdì ha una foto di una turista in piazza San Marco a Venezia coperta di piccioni, probabilmente con disdoro del sindaco Cacciari che ha vietato di nutrirli, e il titolo è Turisti in giro per l'Italia, intromettitori e centurioni, e c'è così una lunga carrellata sulle nefandezze del turismo in Italia, con delle foto di finti centurioni romani davanti al Colosseo e così, illustrazioni di cosa va incontro, cosa rischia chi viene in Italia come turista. Bene, adesso volevo tornare ai quotidiani per un'ultima cosa, per segnalare un'iniziativa nel mitico Nord-Est che è, di cui parla La Stampa. Il Secchione sale in cattedra. Vicenza, per risparmiare, una scuola affida i corsi di recupero ai primi della classe. Siccome non ci sono i soldi per pagare gli insegnanti i corsi di recupero, all'Istituto Professionale Almerico d'Aschio di Vicenza si fa di necessità virtù. E così quest'estate, fra corridoi e aule, si alterneranno docenti veri e studenti professori. I primi terranno corsi di recupero a chi ha insufficienze gravi o multiple, i secondi a chi, magari con un 5, ha mancato per un soffio la promozione. Se avessimo dovuto garantire un corso a tutti i ragazzi con un debito, avremmo dovuto avere almeno 10.000 euro in più, calcolo il dirigente scolastico Enrico delle Femmine. E così, dalle finanze in verde, l'idea dei baby prof. Infine il Corriere della Sera ha una pagina su un'intervista a la donna dello Xinjiang, che è la donna cinese che ha scatenato la rivolta nello Xinjiang. E, come forse vi ricordate, si è sparsa la voce che era stata stuprata e da questo sono cominciati gli scontri etnici. Questa donna racconta all'agenzia Nuova Cina che invece lo stupro non c'è mai stato e aveva semplicemente preso paura, aveva urlato perché aveva preso paura, ma non era stata nemmeno toccata. Bene. Io ringrazio tutti, si conclude qui la rassegna stampa e l'appuntamento è a lunedì con qualcun altro, non con me, e adesso la linea torna a 24 mattina con Alessandro Milan.